vorrei girare tutto il mondo e ritrovare tutti gli amici che ho, rapiti dai loro interessi e dall'amore e io notizie non ho. Che speciale nostalgia mi prende se ripenso che quando ho conosciuto lei partiva per l'America. Prima che prendesse il volo io le ho detto sì, verrò. Se sei sempre lì, aspettami in America ed io verrò. Ti giuro io verrò. Se sei sempre lì, aspettami. In America, nella magia della notte, insieme a New York, nella grande mela noi, nel tramonto di Manhattan, se tu vuoi. Qui è mezzanotte per te il sole all'orizzonte, io ti telefonerò. L'oceano è grande ma ti sento qui vicino. Amore mio, come stai? Dimmi ancora che mi vuoi e corro lì in America. Maglioni e i miei blue jeans, macchina fotografica, prendo la valigia e volo io, stasera sarò lì a New York. Se sei sempre lì, aspettami in America ed io verrò, ti giuro che verrò. Se sei sempre lì, aspettami in America. Nella magia della notte, insieme a New York, nella grande mela noi, nel tramonto di Manhattan, se tu vuoi. Insieme a New York, nella grande mela noi, nel tramonto di Manhattan, se tu vuoi.